Rientriamo in diretta quando ormai sono le 13 in punto. Ci prendiamo ancora qualche minuto prima del giornale radio, perché oggi è giornata di report relative ad assemblee che si sono svolte ieri. Abbiamo già parlato di quanto si è discusso la nuova occupazione di Mattia Battistini. Ieri sera c'è stato invece un dibattito per fare il punto riguardo la lotta che si sta conducendo nei posti di lavoro della logistica, questo insieme di magazzini nei quali sono ingaggiati facchini, molti immigrati, ma in alcuni posti di lavoro è alta anche la presenza di italiani, in cui le condizioni di lavoro sono scandalose. Ma insomma, se ne sta parlando da tempo, visto che è qualche anno ormai, che è entrata poi nel vivo negli ultimi mesi questa vertenza dei facchini che coinvolge diverse città italiane. E il fatto che dia abbastanza fastidio lo dimostra la repressione che nel corso di questi mesi comunque si è fatta sentire in questi posti di lavoro, addirittura con strumenti poco usuali. Ad esempio, oltre agli allontanamenti, i licenziamenti, le rappresaglie in un certo senso tradizionali, per invece le avanguardie sindacali si sono utilizzati anche strumenti ulteriori come i fogli di via, le intimidazioni e cose di questo genere qua. Allora, a Roma la vertenza sta comunque raggruppando diversi posti. Abbiamo parlato spesso di magazzini di Corcolle, dove c'è SDA che lavora per Poste Italiane. Recentemente si è fatto riferimento anche ai magazzini di Risparmio Casa. Insomma, è una situazione in continua evoluzione. Noi siamo collegati telefonicamente con un compagno che ci scuserà per questa lunghezza introduttiva, ma con lui vorremmo capire bene i termini della discussione di ieri, visto che c'è una giornata di lotta importante all'orizzonte, quella del 12 luglio. Sì, salve a tutti e a tutte. Lo sciopero nazionale indetto il 12 luglio dal Sicobas si inserisce in un quadro in cui la crisi si inizia a far sentire anche sui vettori nazionali della logistica, e quindi inasprisce i rapporti sindacali e rende più risicati i margini di contrattazione. Da un'altra parte c'è anche un livello di repressione che oramai è simboleggiato da questa questione del Granaro, in cui si è rotto ogni tavolo di trattativa, non con l'azienda dove non c'è mai stato, ma con la prefettura che aveva tentato una mediazione, per cui la giornata del 12 sarà prevalentemente dedicata a questo tema della repressione antisindacale in solidarietà ai 41 licenziati della Granarolo, e sarà probabilmente una giornata che apre una lunga campagna di sostegno alla cassa di resistenza, perché questi lavoratori possano non sentire anche la pesantezza materiale del licenziamento, e anche una lunga campagna di boicottaggio della Granarolo, che dovrà portare alla riassunzione, un po' come avvenuto nel caso dei facchini della cooperativa di Ikea a Piacenza. Per quanto siamo costretti a interromperci qui. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Un po' di problemi con il telefono che aveva iniziato a gracchiare di brutto. Insomma, Alberto, ti ricedo la parola. Sì, recuperiamo la comunicazione. Stavo dicendo appunto che il tema sarà quello della repressione antisindacale. Il DOCI lancerà, perché si è interrotta ogni comunicazione anche con la prefettura che aveva tentato delle mediazioni, e il 12 lancerà alla fine una lunga campagna sia di sostegno materiale ai facchini, perché possano non sentire anche la pesantezza materiale, diciamo, del loro licenziamento, con finanziamenti della cassa di resistenza, sia una lunga campagna di boicottaggio della Granarolo, in maniera che i lavoratori alla fine vengano riassunti esattamente come è successo nel caso dei facchini dell'IKEA di Piacenza. Dall'altro lato ci sono ancora sul campo locale lo strascico di alcune vertenze. L'accordo firmato a Roma con l'SPA non vede un rispetto pieno. In particolar modo c'è stato una negoziazione sugli arretrati dovuti dalla cooperativa, e ancora questa l'ammontare concordato non è stato versato a tutti i lavoratori. Inoltre, un altro punto caldo dello sciopero della scorsa primavera è stato quello del pagamento immediato delle serie all'atto stesso in cui queste venivano usufruite, e ci sono stati dei problemi per alcuni lavoratori andati in ferie tra giugno e l'inizio di luglio. Si sono visti recapitare una busta paga dove appunto i giorni di ferie non venivano calcolati. Dall'altro lato, dicevo che c'è anche un'altra questione aperta sul piano della crisi, perché TNT, come sapete, ha dichiarato dei licenziamenti. Questi licenziamenti si tradurranno a Roma nella liquidazione di un intero comparto di impiegati, di un intero customer service e nella chiusura di due filiali. Questa cosa non ha immediatamente delle conseguenze sullo stato occupazionale delle figure più operative, come i corrieri e i facchini, ma sicuramente prelude a un riassetto dell'azienda con grosse conseguenze. Su questo il sindacato confederale ha scelto una linea che noi reputiamo anche un po' di basso profilo, nel senso che di fronte alla gravità di questi licenziamenti c'è un susseguirsi di scioperi e richieste di incontri che però hanno poco riscontro. Il prossimo luglio, il prossimo 19 luglio ci sarà anche uno sciopero dei confederali sulla questione dei licenziamenti TNT, e noi vorremmo anche avere una presenza che solidarizza una parte con i lavoratori e li spinge anche a iniziative più radicali. E in ultimo, la caratterizzazione della giornata del 12, che è quella di solidarietà ai lavoratori della Granarolo, ci porta anche qui a Roma alla tematica della repressione antisindacale, perché anche qui a Roma sono avvenuti dei licenziamenti preventivi, sindacali, con caratteristiche che noi reputiamo del tutto politiche, e questa cosa non resterà non segnalata. Tenteremo di dare solidarietà anche su questo. Beh, sì, assolutamente. Insomma, è una situazione che già in parte la si può considerare esplosiva, di fronte alla quale la controparte comunque si sta attrezzando nel migliore dei modi per cercare di frenarne così la estensione. Rispetto anche a quelli che hai già citato tu, cito un altro paio di episodi, uno relativo alla condanna a un compagno del Sicobas, del collettivo La Sciloria, per aver partecipato a uno sciopero nel 2008, durante il quale appunto c'era in corso una lotta dei facchini dell'azienda Bennett, peraltro una vertenza che ha anche ottenuto importanti risultati, ma non si è fatta attendere invece la rappresaglia politica, una condanna di 3 mesi tramutata in una multa di 1.240 euro. Quanto invece a diciamo le rappresentanze sindacali ufficiali, c'è da dire che loro stesse, insomma, in alcuni casi sembra si siano così affaccendate nel rendersi complici del taglieggiamento delle buste paga degli operai dei facchini della Granarolo, tanto per dirne una. E a proposito delle intimidazioni a cui accennavamo, sembra che molti dei 41 licenziati siano stati raggiunti da diciamo promesse di riassunzione nel caso in cui cambiassero sindacato. Quindi insomma è una situazione nella quale si stanno adoperando tutti i mezzi leciti, illeciti, che dir si voglia. Sì, sicuramente, ovviamente, come dicevo all'inizio, c'è il combinato disposto del ciclo di lotte che in questi anni sta riuscendo a strappare quantomeno il rispetto dei minimi contrattuali nazionali, e dall'altro della crisi che ormai colpisce anche i vettori e il settore della logistica. Su questo sono scattati i classici meccanismi di repressione. Voglio solo far notare che questa repressione non si è limitata alla repressione aziendale, è diventata un fatto tutto politico nel momento in cui a Bologna si dà una precettazione a dei facchini che trasportano alimenti per interruzione di servizio pubblico. La stessa denuncia penale per interruzione di servizio pubblico viene fatta da alcuni corrieri nel Veneto, e quindi diventa direttamente un fatto di definizione politica del diritto di sciopero. Assolutamente, è anche interessante registrare come questi cambiamenti da un punto di vista così apripista, pilota, avvengano proprio in questo settore, insomma, nel quale peraltro insomma le reazioni che stanno suscitando e queste misure, ma soprattutto le condizioni lavorative particolarmente vergognose, insomma, ovviamente si pongono, come dire, in contrasto, no? Pure a questa tendenza che c'è nel fare di questo settore un po' il laboratorio che hanno rappresentato le cooperative sociali qualche anno fa, in un certo senso. Va bene, allora 12 luglio, giornata di sciopero in solidarietà con la lotta della Granarolo. Al momento rimangono in sospeso, diciamo. Sì, rimangono in sospeso alcune cose. Io invito tutti i compagni che vogliono sapere di più dei termini anche pratici di come partecipare e solidarizzare allo sciopero del 12 luglio a fare un salto all'assemblea di solidarietà ai lavoratori della logistica che ci sarà domani alle 6:30-7 alla sede del comitato di quartiere dell'Alberone in via Pianova 357, quindi verso le 6:30-7 della sera ci sarà un'assemblea in cui verranno anche resi noti i dettagli a chi vorrà prendere parte personalmente, tipo alla solidarietà ai lavoratori, di come prendere forma la giornata di venerdì 12. D'accordo, ti ringraziamo molto e rimandiamo, per chi fosse interessato, appunto, ricapitolando, l'appuntamento domani sera, questa assemblea in cui si definiranno in maniera più dettagliata le indicazioni, diciamo, di come muoversi per il giorno successivo. Grazie Alberto, ciao. Grazie a voi. I'm the beach of the beaches, stay with me for tonight. Of course.